Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, meno 1% Milano, invariata Parigi, più 0,35 Francoforte, più 0,27 Londra. Chi si attendeva un rimbalzo oggi dopo il tonfo di ieri, più che tonfo dopo il fatto che ieri tutte le vendite si fossero concentrate quasi tutte su Milano, oggi resta deluso. Non c'è modo per far recuperare valore alla borsa in questo momento, 13.000 punti, ma soprattutto di nuovo fortemente in calo i titoli bancari. Il Monte dei Paschi ormai vale 19 centesimi di euro. C'è una battuta che circola a Siena, che vabbè, forse un po' irrispettosa per gli azionisti, che dice, insomma, mi dia il giornale, le do 4 azioni del Monte dei Paschi. E purtroppo qua ne servirebbero 5 di azioni del Monte dei Paschi. 19 centesimi di euro, non va meglio la Popolare di Milano, a 31 centesimi di euro perde il 5,40% anche oggi. Unicredit meno 5,15% a 2,35 euro. Mediolanum meno 5% a 2,28 euro. Intesa San Paolo è sotto l'euro per azione, 98 centesimi, meno 4,60%. Popolare Emilia Romagna meno 4,1%. A 3,40 euro, Ubibanca meno 3,60 a 2,30 euro, Mediobanca meno 2,90 a 2,95 euro, poi Banco Popolare meno 2,60. Chi va bene oggi? Diasorin più 2,14, Tenaris più 1,70, Lottomatica più 1,20, Impregilo più 1%, Telecom Italia più 0,80, Eni più 0,60%, Luxottica più 0,40. I temi ancora riguardano fortemente il caso europeo, i casi europei. Segnalo che oggi Sole 24 Ore in prima pagina ha un titolo a 9 colonne, Schnell, Frau Merkel, che richiama quel fate presto ormai famoso, riferito a quel tempo al governo italiano. Adesso il fai presto signora Merkel è riferito chiaramente alla Germania, e ne parleremo più avanti con il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, perché l'invito è un invito a muoversi su tre direzioni importanti, tre direzioni che molto modestamente avevamo suggerito anche noi. Oggi c'è, ma non necessariamente perché l'abbia scritto il Sole, anche se il titolo in tedesco campeggiava oggi su tutti i siti dei principali quotidiani tedeschi. Ci sono oggi dichiarazioni importanti di Angela Merkel, che dice: se vogliamo una garanzia europea sulle banche, occorre che i singoli stati rinuncino a un po' di sovranità nazionale. Questo si può fare. È chiaro che se tu vuoi che il debito diventi un debito europeo, o meglio, in questo caso la tutela delle banche sia una tutela europea, devi rinunciare a qualcosa come singolo Stato, come singola nazione. Questo vale anche per la Germania, ma vale anche per l'Italia. Va bene, andate avanti, fate sto cavolo di riforma della Costituzione, perché così il sistema non regge più. Ha assolutamente ragione il direttore del Sole 24 Ore nel dire che qui si assiste a una specie di omicidio lento e costante, un po' come i 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Uno a uno si colpiscono i singoli paesi perché non c'è mai una risposta collettiva. Qualcuno si ricorda la vicenda degli Oreazzi e Curiazzi? Ecco, un po' così. Presi singolarmente, i singoli paesi europei non reggono, e forse nemmeno la Germania. E poi invece presi assieme noi saremo l'area geografica geoeconomica più importante del mondo. Abbiamo un debito inferiore a quello americano in rapporto al PIL europeo, abbiamo un'inflazione molto più bassa, esportiamo molto di più. Il problema è che finché restiamo separati è molto facile colpire un paese alla volta: Grecia prima, poi Irlanda, poi Portogallo, mo la Spagna, e il mercato scommette che il prossimo paese a dover chiedere aiuti sarà l'Italia. Complimenti oggi, poi li daremo con calma, al ministro austriaco, perché ha fatto arrabbiare anche Mario Monti. Il ministro austriaco Vetter ha detto sostanzialmente: adesso dopo la Spagna bisognerà dare gli aiuti all'Italia, e Monti si è seccato su questo. Poi il cancelliere austriaco Faymann ha detto: basta fare dichiarazioni sull'Italia. Dico semplicemente una cosa, attenzione anche all'Austria, perché se ricordo bene non è che le banche austriache fossero proprio messe così così bene. Comunque abbiate pazienza, lezioni da un paese satellite della Germania, magari anche no, nella vita. La sovranità ce l'hanno già scippata, sì, però a questo punto, scrive un ascoltatore, facciamolo in maniera formale, cioè rinunciamo un po' di sovranità, perché a questo punto ci mettiamo sotto il tetto europeo e quindi saremo meno in grado di gestire alcune risorse e alcune scelte, però abbiamo le banche garantite a livello europeo, abbiamo possibilmente anche i debiti in parte garantiti a livello europeo. Scrive un altro ascoltatore al 349-238-6666, Barisoni, ma lei quanto è stanco di questa crisi? Sono stanco, ma secondo me più stanco di questa crisi è chi la sta pagando sulla sua pelle. Per esempio gli esodati, e ne parleremo perché insomma il ministro Fornero è furibonda con i vertici dell'INPS, con Mastrapasqua, non solo, però il titolo è insomma Fornero arrabbiata sugli esodati, e in realtà io direi esodati arrabbiati con la Fornero, se dovessi fare il titolo io. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, rapidamente le altre notizie in breve. Nemmeno il rimbalzo del gatto morto, avete ragione, non c'è neanche stato il rimbalzo del gatto morto oggi in borsa, che è quell'espressione inglese per dire che quando tu lanci un gatto da un grattacielo, anche se poi è morto, rimbalza, e quando le borse diciamo hanno un rimbalzo non significativo ma solo come un leggero recupero, si chiama rimbalzo del gatto morto. Manco quello abbiamo oggi. Parleremo della spesa pubblica italiana anche, perché è vero, non ci sono i tagli, c'è un rapporto, oggi c'è l'assemblea annuale dell'artigianato, avremo ospite presidente, e in cui emergono dei dati allarmanti sulla spesa pubblica italiana. Cresce, lo scrive bene oggi Sergio Rito sul Corriere della Sera, di 40.000 euro al minuto. La nostra spesa pubblica è aumentata in 10 anni del 5%, mentre in Germania dello 0,6% e nella media europea del 3,5%. Quindi si chiede all'Europa di dimostrare di essere una casa comune, però poi noi a casa nostra facciamo i compiti, e vorremmo sapere come sta lavorando il commissario Bondi su questo, il ministro Giarda battesse un colpo se continua la spending review, e poi abbiamo delle chicche molto belle sulla Sicilia, la regione Sicilia, ma non è possibile, io vi dico solo un dato, ma voi sapete che la regione Sicilia spende per i dipendenti della sua regione il 75% di quanto spendono tutte le altre 15 regioni italiane non a statuto autonomo. 20.000 dipendenti nella regione Sicilia, più 27.000 tra precari e varie collaborazioni a progetto, che poi sono sussidi mascherati di disoccupazione. 47.000 in tutto, ma che si fa? Poi fosse ben amministrata, no? Lo spread, volete sapere, intanto è salito pesantemente anche oggi, è 487 punti, siamo al 6,25% nei BTP a 10 anni. In Spagna si viaggia a 535 punti, la Spagna deve pagare il 6,75% per trovare finanziatori del suo debito a 10 anni. Però una buona notizia arriva dall'agenzia di rating Fitch, che dice è improbabile che l'Italia abbia bisogno di un salvataggio, perché il paese è in una situazione migliore rispetto alla Spagna. Tutti i paesi dell'area euro però sono a rischio declassamento, anche quelli con la tripla A, capito Germania? Anche quelli con la tripla A, se l'Europa non riuscirà, se i leader europei non riusciranno a risolvere la crisi. E però un dato allarmante arriva oggi dal direttore generale dell'ABI, delle banche italiane, Giovanni Sabatini, il quale ha fatto notare che negli ultimi mesi è completamente scomparsa la raccolta internazionale delle banche italiane, cioè quello che le banche italiane riescono a raccogliere da investimenti internazionali. Finché continuerà la percezione dei mercati finanziari che l'Italia è un paese a rischio, l'immagine del paese si rifletterà sulle banche italiane e le banche italiane avranno difficoltà a fare credito. Dicevo di Mario Monti e del, della sua reazione per un uomo così compassato, molto secca e seccata, oltre che secca, nei confronti dell'Austria. Monti oggi ha detto: l'Unione Europea ha capito che servono decisioni importanti per garantire la stabilità finanziaria dell'area euro con ogni strumento. Dal Consiglio Europeo del prossimo 27 giugno mi attendo che arrivino indicazioni e decisioni operative sulla crescita. Le decisioni che abbiamo assunto dimostrano che l'Unione Europea ha la capacità di compiere scelte importanti all'altezza delle attese delle nostre opinioni pubbliche, prima ancora che dei mercati. Continuiamo e continueremo a lavorare per garantire la stabilità finanziaria della zona euro con tutti gli strumenti a disposizione. E mi attendo nei prossimi giorni che la discussione sulle modalità per rilanciare la crescita in Europa si sviluppi e si approfondisca in vista di decisioni operative in occasione del prossimo Consiglio europeo. E poi dicevo, le dichiarazioni molto seccate nei confronti dell'Austria. Ha detto Monti: considero del tutto inappropriato che un ministro di uno Stato membro dell'Unione Europea commenti la situazione di un altro Stato membro, quindi mi astengo da fare commenti. Come considero del tutto inappropriato che il ministro o ministra delle finanze di uno Stato membro dell'Unione Europea commenti in questo modo la situazione di un altro Stato membro, mi astengo dal commentare a mia volta le dichiarazioni del suddetto ministro. Ha chiesto poi per metà scusa il Presidente del Consiglio, il Cancelliere austriaco Werner Faymann. Ha messo in guardia il suo governo dal parlare male della situazione economica in Italia. E poi Monti è intervenuto anche sulla lotta all'evasione. Io non ho capito che fine abbia fatto l'accordo che dovremmo fare con la Svizzera, quello fatto dalla Germania, che vale qualche miliardo, c'è chi ha stimato 4 miliardi, 5 miliardi di euro. Ha detto Mario Monti che tra Italia e Svizzera c'è l'obiettivo comune di contrastare l'evasione fiscale e sono molto soddisfatto di poter annunciare il buon lavoro bilaterale. Sono molto soddisfatto di poter annunciare il buon andamento dell'incontro del gruppo di lavoro bilaterale costituito per esaminare in modo approfondito diversi temi finanziari e fiscali in vista dell'identificazione di soluzioni operative che siano pienamente compatibili con la disciplina comunitaria. In modo particolare ci siamo soffermati oggi sui temi relativi alla doppia imposizione e allo scambio di informazioni. E sempre però in tema di Europa, oggi è intervenuto anche il ministro Passera, che lo scotteremo nella seconda ora, ha detto: fa indignare il comportamento dell'Unione Europea rispetto alla crisi. L'Europa ha dimostrato di non saper prendere in mano la situazione e ha agito aspettando l'ultimo momento prima del dramma. Sul decreto sviluppo Passera ha ribadito: stiamo lavorando assieme, troveremo le risorse. Il decreto prevede 40 articoli. Il presidente Confindustria Squinzi oggi ha detto però: stiamo supportando il governo nei provvedimenti giusti, ma al momento non sono molti quelli che hanno la direzione della crescita. E poi sugli esodati Squinzi ha detto che i costi di eventuali errori sugli esodati non vadano, ha chiesto che i costi degli eventuali errori sugli esodati non vadano a carico delle aziende. Su questo tema c'è uno scontro feroce tra il ministro Fornero e i vertici dell'INPS. Ha detto infatti il ministro, quello diffuso ieri, che parla di 390.000 persone, è un documento parziale e non spiegato. Chi gioca al massacro andrebbe sfiduciato, nel settore privato capiterebbe così. E poi ha aggiunto, appunto, nel settore privato quello che è successo ieri con l'INPS sarebbe un motivo per rivedere, cioè mandare via i vertici. Sono usciti, l'ho detto ieri, dei documenti che sono parziali, contengono numeri parziali e non spiegati, e questo non è mai una bella cosa. Il ministro non ha mai voluto dire che i numeri non debbono essere dati, dico soltanto che quelli sono parziali e non interpretati. E allora dare dei numeri così su questioni che interessano molti italiani è molto improprio e vorrei anche dire deresponsabilizzante. Quindi questo è un episodio grave, mi permetto di dire che è grave, e ribadisco l'intenzione seria del governo rispetto a un problema che c'è, ma la cui dimensione esatta non è contenuta in quei numeri, e quindi i numeri vanno dati quando sono interamente conosciuti, e noi mi risulta che l'INPS, a cui sono mesi che io chiedo di darmi dei numeri corretti e non quelli parziali, quindi si danno quando sono corretti, e quando sono corredati da diciamo un'analisi che può essere spiegata al pubblico e anche da soluzioni che si possono di nuovo spiegare al pubblico. Adesso non siamo in quella situazione. Se fossimo in un settore privato, questo sarebbe un motivo per considerare i vertici. Siamo nel settore pubblico, ci sono le leggi, c'è il Parlamento e tutte queste procedure vanno rispettate. E quindi su questo mi limito a dire così. Vedremo come andrà a finire, i rapporti non sono buoni, vi ricordate l'intervista di 2 settimane fa nei nostri studi con il ministro Fornero, in cui disse insomma certe dichiarazioni del presidente dell'Istituto Maestro Pasqua erano state inopportune, intempestive, ma adesso sta proprio furibonda. A noi dello scontro tra il ministro Fornero e il presidente dell'INPS Maestro Pasqua interessa fino a un certo punto, ci interessa sapere, visto che la copertura c'è per 65.000 esodati, cosa ragionevolmente capiterà agli altri 300.000, poi se fossero 200.000 cambierebbe poco, cioè fai una riforma delle pensioni, devi pensare anche agli esodati, non possiamo tenere in ballo le persone senza un lavoro e senza la pensione, non è vita, chi se ne frega degli scontri, parlatevi, uscite con sto cavolo di numero, non se ne può più. Presidente Giorgio Guerini, Presidente della Confartigianato, buonasera. Buonasera, salve. Oggi voi avete fatto la vostra assemblea, rappresentate 700.000 imprese. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666. Da voi ha parlato appunto il ministro Passero, lo abbiamo ascoltato. La pressione fiscale denunciata è impressionante al 53,7%, ma la cosa che voi avete fatto notare, anche perché lo studio è vostro, la spesa pubblica, di quanto aumenta la spesa pubblica in Italia ogni ora, Guerrini? Guardi, ogni ora aumenta di 40.000 euro, aumenta di 2 milioni al giorno, aumenta di 250 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. Sì, lei voleva dirmi 40.000 euro al minuto e 2 milioni all'ora forse. Sì, sì. Noi siamo il paese che ha la più lenta crescita, ma la maggior velocità a spendere i denari pubblici. Questo è un record. Sì, cioè noi abbiamo aumentato la spesa pubblica in questi 10 anni del 5,5% in 12 anni contro un aumento medio dell'Europa del 3,5% e tra l'altro la Germania dello 0,6%. Su questo la Germania ha diminuito dello 0,6% la spesa pubblica in questo periodo, mentre noi l'abbiamo aumentata del 5,5%, il che vuol dire che vi è un differenziale di oltre il 6% di incidenza di spesa pubblica, che vuol dire poi anche incidenza degli interessi che questo paese deve pagare con i tassi di interesse così elevati come abbiamo in Italia rispetto alla Germania, e questo meccanismo non sta più in piedi, salta. Tra l'altro la cosa che mi fa impressione è che sugli 800 e passa miliardi di spese pubbliche che abbiamo ogni anno, 809, 170, lo diciamo spesso, sono di spesa per beni e servizi, cioè non sono stipendi, sono acquisti. Beh, pensate che in questi 10 anni, dal 2001 al 2011, quindi si assuma la responsabilità a tutti i governi dal 2001 al 2011, quindi due governi Berlusconi e un governo Prodi, ok? No, questo per dare i nomi alle cose, alla faccia del rigore di qua, rigore di là. Allora, la spesa per beni e servizi, per l'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, quindi regioni, comuni, province, ministeri è aumentata del 35% tra il 2001 e il 2011. 35%, cioè non lei solo pensi, non si è tagliato nulla, ma abbiamo fatto un più 35%. Lei gli stipendi pensi, degli italiani, mi scusi che finisco Guerrini, sono fermi negli ultimi 10 anni, non si sono mossi, quelli dei lavoratori dipendenti in primo luogo. Prego. Lei pensi cosa sarebbe successo nel settore privato? È vero. Nel settore privato, a causa anche di questa crisi, vi è stata una contrazione notevole di costi. Al contrario, nella pubblica amministrazione si è fatto finta che questa crisi non ci fosse e si è continuato a spendere. Io credo che un paese come il nostro non se lo possa più permettere, anche perché noi abbiamo assistito a proclami di riforme che dovevano riformare la pubblica amministrazione, ridurre i costi della macchina dello Stato. Di fatto sono passati anni senza vedere nulla, solo finte, solo moine, come dicono giù al sud. Ecco, io credo che per una situazione economica come quella che stiamo attraversando, dove il paese non cresce, la disoccupazione aumenta, le entrate dello Stato, perché il paese non cresce, diminuiscono, noi non ci possiamo permettere uno spreco di questo tipo. E allora vorremmo che la politica, in un ultimo guizzo di questa legislatura, riuscisse a fare le cose che gli imprenditori e tutti i cittadini attendono da tempo, che vuol dire diminuire il costo della politica, per prima dare l'esempio, diminuire il costo della pubblica amministrazione, razionalizzando anche la rappresentanza politico-istituzionale. Noi siamo il paese che in Europa ha maggiori livelli di rappresentanza, lo Stato nazionale, le regioni, le province, i comuni, i piani d'ambito, non ce lo possiamo più permettere. Cominciamo a fare una cura dimagrante, perché il vitello grasso della pubblica amministrazione è rimasta l'unica cosa grassa in questo paese. Allora, c'è però una buona notizia su questo, sui risparmi anche della politica, perché la Camera dei Deputati dirà addio al ristorante per i deputati. Dalla prossima legislatura però sarà sostituito da un self-service. Dovranno pagare al massimo 12 euro, e ci sarà un risparmio, stima Antonio Mazzocchi del PDL, uno dei questori di Montecitorio, un risparmio di 3 milioni. Beh, insomma, per questo sacrificio di passare dal ristorante della Camera al self-service della Camera, l'applauso di oggi di Focus Economia. No, dico, a parte il fatto che con certi stipendi uno può comunque andare dal ristorante, ma ci sono milioni di italiani, inclusi i sottoscritti, che mangiano in mensa, mangiano self-service, e non è che lo fanno notare ogni volta, no? C'è chi ha i buoni pasta a 7 euro, per cui... Però, vabbè, almeno non c'è più il ristorante. Senta Guerrini, ma che cosa volete dal governo voi adesso? Perché il governo si muove su un sentiero strettissimo, la Confindustria lamenta un rallentamento dell'attività, c'è cioè questo DL sviluppo che non si capisce se abbia o non abbia. Guardi, le risorse, prego. Noi abbiamo dato un sostegno stamani in assemblea al ministro Passera perché si riesca finalmente a vedere la luce di questo decreto sviluppo, dove ci sono contenute cose positive, ma che se non vedono la luce rimangono solo pie intenzioni. Ne dico una per tutte, che potrebbe dare una spinta all'economia molto importante in un settore determinante come quello delle costruzioni. Il poter elevare la detrazione dal 36 al 50% delle ristrutturazioni degli immobili e dell'efficientamento energetico degli edifici e poter elevare da 46.000 a 98.000 euro, quindi il doppio, le cifre da poter portare in detrazione, sarebbero un volano molto importante che servirebbe da una parte a far emergere ulteriormente lavoro sommerso e dall'altra poter dare con un piccolo investimento iniziale in minor gettito fiscale ma in prospettiva un recupero maggiore, una spinta fondamentale, perché dietro la casa, dietro l'edilizia ci stanno poi altri 10 settori. Allora, solo questo, noi crediamo, potrebbe dare al sistema delle piccole e medie imprese in poco tempo, in pochi mesi, una spinta fortissima. L'altra cosa che chiediamo da tempo è il poter dare il via all'impagato che la pubblica amministrazione ha in giacenza da anni. Il ministro, cioè, ha detto 100 miliardi, 60 miliardi. Io non dico di questi 60 miliardi poter avere una liquidità totale, ma costringere le amministrazioni territoriali e l'amministrazione centrale a certificare il debito e a dire soprattutto quando è il periodo del pagamento, servirebbe a poter andare in banca, perché oggi con una fattura dello Stato, se si va in banca ti guardano e certo, ti dicono lei cosa vuole, perché una fattura dello Stato non è pagabile. Mentre un certificato firmato da un funzionario che dice l'azienda Guerrini deve avere questi soldi e io gliele pago in questa data, sarebbe il modo per poter immettere nel circuito dell'economia reale, quindi delle imprese, non 60 miliardi ma magari 5-6 miliardi che dovrebbero servire a far ripartire l'economia, in attesa che la direttiva europea finalmente all'inizio del 2013 entra in vigore e obblighi tutte le amministrazioni pubbliche a pagare, come avviene in Europa, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, a 60 e a 90 giorni, non a un anno e mezzo, perché l'assurdo è che le piccole imprese fanno da banche alle amministrazioni territoriali. Credo che questo non sia giusto, visto che il denaro ha un prezzo e nel nostro paese è molto elevato. Ma il ministro vi ha fatto sapere qualcosa, perché c'era un progetto di sbloccare almeno 20 miliardi, si sa nulla? Il ministro ci ha detto che a breve il lavoro sarà concluso. Noi facciamo il tifo per il ministro e diciamo che dobbiamo avere più coraggio e soprattutto che queste cose e questa politica non venga regolata dalla ragioneria dello Stato, perché se è la ragioneria dello Stato che nel passato ha permesso che questo debito diventasse così ampio, stiamo freschi. Presidente Guerini, auguri ai suoi 700.000 associati, ripeto. Grazie, la pressione fiscale. Queste persone sane che lavorano. Sì, e vabbè, avrete qualche mela marcia anche voi, non è che sì, guardi, noi abbiamo fatto l'iniziativa Disperati Mai, che va avanti per chi ha, per dare una voce a chi è disperato. Ci sono anche molti artigiani, qualche mela marcia ce l'avrete anche voi, non è che su tutto... 700.000 poche, vabbè. Qualche evasore ce l'avete anche voi. Ma detto ciò, l'importante in questo momento è tenere botta in tutto il paese. La pressione reale che voi segnalate è impressionante, è al 53,7%. In bocca al lupo comunque a tutti gli artigiani, il metodo, la pubblicità, poi se ce la faccio vi faccio arrabbiare ancora un po' con alcuni dati su quanto spreca la regione Sicilia e quanto non riescono a usare i fondi europei le regioni del nostro sud. La borsa ha chiuso con un meno 0,70% a Milano, di nuovo in forte flessioni bancarie, adesso ne parleremo, meno 6% quasi il Monte dei Paschi, meno 5% Mediolanum e la Popolare di Milano, meno 4% Unicredit e meno 3,70% Intesa San Paolo. Ma vista questa situazione, visto che dopo parleremo molto di quello che deve mettersi in testa di fare la Germania, bellissimo, ripeto, il titolo oggi di apertura del Sole 24 Ore, Schnell Frau Merkel, muoviti, fai veloce signora Merkel, però uno per criticare la Germania deve anche avere i conti a posto e soprattutto fare i compiti a casa, e noi come paese ci stiamo provando, pensioni, tasse, IMU. Vedremo cosa capiterà alla spesa pubblica, per ora niente. Però, ma con questa situazione c'è qualcuno che la crisi proprio non la sente. E mi dispiace, io non so, governatore Lombardo, venga a parlare a Focus Economia, ci spieghi perché la regione Sicilia ha 20.000 dipendenti più 27.000 tra precari e persone impegnate in progetti di pubblica utilità. Ci spieghi perché per ogni siciliano la sua regione costa 346 euro all'anno, mentre la Calabria e la Campania, che non è proprio, capisci, la Svezia e la Finlandia, costano 66 euro a cittadino, e la Lombardia, che non mi sembra che funzioni peggio della Sicilia, costa 23 euro a cittadino. È inammissibile avere spese del genere per una regione che funziona malissimo. Sapete perché costa così tanto? Perché da spende per gli stipendi praticamente il 75% di quanto spendono le altre 15 regioni italiane, cioè la regione Sicilia spende per gli stipendi 1 miliardo e 750 milioni di euro, mentre le altre 15 regioni messe assieme d'Italia spendono tutte assieme 2 miliardi e 3. Si può andare avanti così? Secondo noi no, ma la crisi comunque lì non la sentono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Non solo perché se vanno a elezioni anticipate salta il taglio promesso dei parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, no? Da 90 a 70 il presidente Lombardo, che si è ridotto lo stipendio, va dato atto a Lombardo, si è ridotto lo stipendio da 18.500 euro al mese a 16.500 euro netti, che comunque sono 5.000 euro in più di Andrew Cuomo, il governatore di New York, e anche 3.000 euro in più di quanto guadagna a livello lordo il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, ma sappiamo che l'ONU è niente rispetto a Palermo. Ma non basta questo, perché la cosa che mi manda veramente in bestia è vedere come le regioni del sud e anche la Sicilia non riescono a spendere i soldi, sono 60 miliardi di euro, vanno a scadenza quest'anno. Bisogna spendere entro il 2012 almeno il 35%, sennò Bruxelles questi soldi te li leva, e siccome sono soldi che abbiamo pagato anche noi, tutti i contribuenti europei, Bruxelles te li leva e li dà a altre aree depresse, quindi cornuto e mazziato perché non usi quei soldi e li usano aree a te concorrenti. Beh, volete sapere tutta? Praticamente chi non riesce a spendere sono le regioni che hanno più bisogno. L'Emilia-Romagna, che ha pochissimi di questi fondi, ne ha utilizzati il 45%, la provincia di Trento ne ha utilizzati il 50%, Sicilia e Campania non riescono ad arrivare all'utilizzo del 10%, se non arrivano al 35% di questi 60 miliardi, li perderanno tutti, non riescono a utilizzarli, non c'è nessuna reazione e appunto perderai decine di miliardi entro il 31 dicembre. Io dico solo una cosa: ai siciliani, ai calabresi, ai campani, anche ai pugliesi che ne usano quote marginali, ma cosa aspettate a cacciare questi amministratori? Mandate sotto Palazzo delle Acque, sulla sede della regione siciliana, altrimenti siete in qualche modo collusi, dovete mandarli via. Non è possibile che in un periodo di crisi come questa le regioni del sud non riescono a spendere quasi 40 miliardi di euro già dati dall'Europa perché non sono in grado di scrivere un progetto. Ignoranti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti. È futuro incerto. Scusate se mi sono scaldato, ma non ci posso credere che mentre non dobbiamo aumentare di 2 centesimi l'accisa per trovare i soldi per le aree terremotate dell'Emilia si spendono, cioè non riescono a essere utilizzati 45 miliardi di euro di fondi europei perché non sanno neanche scrivere un progetto i 20.000 dipendenti, soprattutto i loro dirigenti in Sicilia. Una precisazione che qualcuno ha capito male: ignoranti era riferito ai dirigenti delle regioni che non sanno nemmeno buttare giù un progetto per ottenere i soldi, e non c'è solo la Sicilia, c'è la Calabria, la Puglia, la Basilicata, per ottenere i soldi, la Campania soprattutto, Basilicata li usa un po' di più. Per ottenere i soldi europei, non era riferito ai cittadini. Voglio dire, se tu non sei in grado di buttare giù un progetto, vuol dire che devi andartene a casa, via, invece che mangiare pane a UFO, la borsa. Poco da dire, sembra la fotocopia di ieri, ma in grana più fine, non così pesante. L'indice meno 0,70%, Parigi più 0,14%, Francoforte più 0,33%, l'America più 0,80%, Londra più 0,60%. Niente da fare per l'Italia, ma soprattutto niente da fare per le banche, che sono piene di obbligazioni italiane e su quelle sta scommettendo la speculazione. E lo si vede bene perché i cali più forti, cioè voglio dire Ansaldo, Fiat, A2A, perdono 1,5% percentuale, Autogrill 1,70%, poi c'è il salto nel calo quando si va sul mondo bancario. Monte dei Paschi meno 5,90%, Mediolanum meno 5%. Pop Milano meno 4,80%, il 4% lo perdono i crediti, il 3,70% Intesa, il 3,40% la Popolare Emilia Romagna, il 2,80% Ubibanca, Mediobanca meno 2,40%, 80%, Banco Popolare meno 1,81%, Bene di Assori in più 2%, Tenaris più 1,70%, Lottomatica più 1,30%, Telecom più 1,15%, Impregilo più 1%, Eni più 0,60%. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, il commento di questa seduta. E volete sapere l'euro a quota 1,24,76. Livia Zancanera, buonasera Livia. Buonasera. Se non c'è nulla di nuovo sulle banche, io le salterei, così diciamo, mi riprendo un attimo. Lì c'è sempre Rischio Italia, Telecom da un lato e anche Impregilo dall'altro. Sì, allora ricordiamo che ieri Telecom Italia ha perso il 4,5%, oggi ha rimbalzato, ha guadagnato oltre l'1%, sostenuta anche dal buon andamento del settore telecomunicazioni in Europa. In particolare però ieri la società ha annunciato il collocamento di 1,5 miliardi di bond a 3 e a 6 anni che serviranno per rifinanziare in parte una fetta importante del debito pari a 2,5 miliardi di euro in scadenza nel 2012. In serata inoltre dovrebbero essere presentate le offerte per le frequenze 4G in Brasile, che secondo gli analisti dovrebbero comportare una spesa di circa 500 milioni di euro. Anche Impregilo ha chiuso in rialzo dell'1%, qui va avanti la battaglia tra i due azionisti, il gruppo Gavio e Salini, in vista dell'assemblea di luglio che dovrà nominare il consiglio di amministrazione. Ieri il gruppo Gavio ha nominato il nuovo consiglio presieduto da Palenzona e ha detto che proteggerà il CDA da chi vuole contestare il modello del gruppo. Ciò come risposta alle contestazioni di Salini, che nei giorni scorsi ha accusato Impregilo di operare al di fuori dell'oggetto sociale. Quindi comunque ricordiamo che il titolo continua a beneficiare delle scommesse sulle sorti del gruppo e di cambiamenti quindi nello scenariato. Sì. E quindi Telecom Impregilo. Tra i piccoli, devo dire che oggi bisogna andare un po' col lumicino, perché Tenaris più 1,70%, Diassori in più 2%, l'abbiamo detto, Lottomatica più 1,30%, Impregilo lo commentavamo, Eni più 0,60%, Terna più 0,44%. Tra i più sottili invece abbiamo visto movimenti anche su Seat. Piaggio invece oggi ha sofferto un po', allora farei Piaggio e Seat. Sì, allora Piaggio ha perso il 6,8% circa. Quello che preoccupa sono le vendite in Europa. Per le vendite in Europa infatti preoccupano gli analisti, ciò ha penalizzato il titolo. Inoltre diverse banche d'affari hanno rivisto il loro giudizio sulle azioni, sempre a causa dell'andamento peggiore del previsto del mercato italiano ed europeo nel secondo trimestre, mentre vi sono buone aspettative per il mercato indiano. Per quanto riguarda Seat, il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 7% in giornata, per poi chiudere con un rialzo dello 0,60% circa. Oggi si è tenuta l'assemblea degli azionisti, in cui il presidente Enrico Giliberti ha detto di ritenere possibile una chiusura di bilancio in pareggio nel 2013 e inutile nel 2014, ha previsto inoltre che sarà possibile distribuire un dividendo quando il rapporto debito netto e margine operativo lordo sarà pari a 2 volte, ricordiamo che al momento tale rapporto è pari a 3,9 volte. Ancora tra i migliori e peggiori segnalo Ergi Capital più 7,80%, Gas Plus più 7,18% e quello tra i migliori ovviamente. Tra i peggiori invece Landi Renzo che perde il 10,88%, Movimax meno 10%, Sea Therapeutics meno 9,57%. E Antiche Pellettieri meno 9,30%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori sulle 24 ore. Grazie a voi. Allora, c'è chi scrive, ma insomma lei è ossessionato dalla Germania e dalla Sicilia, come fa a non sentirsi in contraddizione? No, non mi sento in contraddizione, perché vede, io per la Sicilia predico quello che dovrebbe fare la Germania per i paesi del sud Europa, e cioè la Sicilia resta in Italia, la aiuti, è un'area depressa, dai agevolazioni e finanziamenti, però la commissari se si comporta così e quindi non le fai toccare un euro se non sono in grado di gestirlo. Io vorrei che la Germania facesse lo stesso ragionamento con la Grecia, per esempio, e avesse detto bene, commissariamo la Grecia però la salviamo, perché l'importante è stare nella stessa casa europea, se no pezzo per pezzo vengono giù i singoli mattoni, se tu inizi con una secessione vera e propria poi dove poni l'asticella. Ecco, l'atteggiamento che ha l'Italia responsabile nei confronti del sud dovrebbe essere quello che dovrebbe avere la Germania nei confronti del sud Italia. No, non è che mi hanno tagliato, c'è una regola, è colpa mia, se non arriva lungo parte la pubblicità. Stavo finendo un ragionamento prima che dicevo non so quanto conti la mafia, nemmeno quanto conti la mafia nella incapacità della Sicilia e di altre regioni del sud di utilizzare nemmeno il 10% dei soldi che avrebbero a disposizione dall'Europa, parliamo di 45 miliardi, sono 60 nel complesso, 45 in questo caso, perché da questo punto di vista l'incapacità è anche quella di capacità, se mi passa del tema, di rubare, cioè, non si riescono a fare i progetti nemmeno per questi soldi che arrivano dall'Europa. Visto che però abbiamo parlato di Sicilia, adesso ci spostiamo in Lombardia, perché che sicuramente è una regione che costa meno come amministrazione e quant'altro, però è abbastanza allo sbando sull'appuntamento più importante, non per la Lombardia, per il paese Italia, l'unico evento internazionale che ci è rimasto in piedi, visto che le Olimpiadi, a mio avviso anche saggiamente, le abbiamo detto di no, grazie. E allora parliamo proprio dell'Expo. In questo momento nei giornalisti, le persone che erano fuori la sala stanno entrando nella sala dove si è svolto lo scrutinio segreto. Milano ha vinto, a Milano va l'Expo 2015, a Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. La gioia della sala si è trasformata nella mestizia del sindaco di Milano, che ieri ha annunciato appunto no, ho dato le mie dimissioni da commissario dell'Expo. Poco fa Pisapia ha detto sulle dimissioni da commissario prenderò una decisione definitiva dopo l'incontro che avrò con il presidente del consiglio, senza spiegare però quando si terrà il colloquio. Su questo però al microfono della nostra Anna Marino è intervenuto invece anche il commissario generale dell'Expo 2015 Roberto Formigoni, nonché presidente della regione Lombardia. Ritengo assolutamente inopportune le dimissioni di Pisapia, anche perché la governance dell'Expo prevede esplicitamente la presenza di un commissario straordinario, individuato nella figura del sindaco di Milano, accanto a quella di un commissario generale, individuato nella figura del presidente di regione. Quindi se viene a mancare una delle due gambe fondamentali su cui cammina l'organismo dell'Expo, è chiaro che diventiamo zoppi e diventa estremamente più difficile realizzare l'Expo. Mi auguro che Pisapia ritiri le dimissioni, gliel'ho chiesto io ieri, gliel'ha chiesto il presidente del Consiglio Monti ieri sera, mi auguro che le ritiri. Oggi però ha confermato che non le ritirerà. E questo francamente pone in difficoltà, ma non me, pone in difficoltà la realizzazione dell'evento. Se si può organizzare l'Expo di Milano senza il sindaco di Milano, forse non si vuole andare avanti a realizzare l'Expo. Quindi secondo lei è un primo passo per rivedere o mettere in discussione l'Expo come le Olimpiadi? Mi auguro di no. Noi stiamo lavorando all'Expo dal 2008, sappiamo benissimo che l'Expo non è figlio di Pisapia come non è figlio di Formigoni, però è stato concepito e voluto dal governo italiano, che all'epoca era presieduto da Prodi, dal sindaco di Milano, che allora era Letizia Moratti, e poi sono stati coinvolti gli altri organismi istituzionali a partire da Regione Lombardia. È chiaro che sia Pisapia sia Formigoni si trovano a gestire un progetto che, ripeto, non abbiamo generato noi, però io ho abbracciato questa opera ben volentieri per il bene del nostro paese, non soltanto di Milano e della Regione Lombardia. Allora, Salvatore Carrubo, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore. Ogni volta che l'Expo si arena e in qualche modo tu arrivi, adesso non vorrei che il tuo nome venisse associato alle difficoltà che ha questo Expo, però la domanda è molto secca. Chiaramente il sindaco di Milano dice occorre una decisione più forte, indicare chiaramente chi è l'uomo Expo, perché non si va avanti così, i cantieri stanno partendo, e mancano i soldi. Domanda di fondo, c'è chi ha ipotizzato che in realtà questa mossa sia stata fatta per arrivare a una soluzione tipo Olimpiadi di Roma, ossia dire a sto punto rinunciamo all'Expo, si è sentito anche di questo oggi. Beh, le Olimpiadi di Roma non erano state ancora assegnate a Roma, l'Expo è stato assegnato all'Italia e quindi la figura, diciamo, e l'impressione che faremmo come paese nel non saper adempiere a questa scadenza credo che sarebbe planetaria, anzi sicuramente sarebbe planetaria, quindi veramente spero che non si tratti di quello, perché arrivare a un evento di questo genere, a un grado di preparazione, di avvicinamento all'appuntamento senza che siamo in grado di poter garantire che l'evento si tenga, sarebbe veramente esiziale per l'immagine dell'Italia. Quindi tu tendi a escludere che Pisapia punti, diciamo, in qualche modo, auspico che non sia così. E allora il tema vero qual è? Perché i soldi, vabbè, però i soldi sono un problema per tutti in questo momento. Il governo ha garantito che i finanziamenti ci saranno. È un problema di che questo Expo dai tempi fin dall'inizio ha sempre avuto un problema di governance, come dice chi ha studiato, cioè di capire chi decide che cosa. Adesso c'è un amministratore legato Sala, che tutti dicono essere molto bravo, ma insomma un po' di governance, un po' di conflitto Formigoni Pisapia, cioè dov'è il punto? Sono i soldi o è la politica? Io credo che i punti siano entrambi. Sicuramente il governo deve dare garanzie su quanti soldi si sappia, quanti soldi su quanti soldi possiamo contare, su quello lavoreremo. Però che ci sia una non tanto sotterranea antipatia fra Pisapia e Formigoni, derivanti anche dal colore politico diverso delle rispettive maggioranze, secondo me è indubbio. Però di nuovo credo che sarebbe un atto di responsabilità nei confronti, di nuovo, non di Milano, della Lombardia, ma dell'Italia, se questa serpeggiante antipatia diventasse paralisi. Questo non ce lo possiamo permettere. E quindi tu dici una difficoltà di rapporti oltre che una difficoltà e un'assenza di risorse. Quanto in ritardo siamo? Perché manca 1000 giorni. Beh, certamente il ritardo c'è, perché se si immagina che le altre Expo a 3 anni dall'evento erano già a un grado di non dico di completamento, però di avvio molto più avanzato del nostro, sicuramente il ritardo c'è. No? Adesso, senza fare il paragone con i cinesi, però credo che anche rispetto ad altri esempi anche europei il ritardo ci sia. Dicono che il ritardo sia colmabile. Io ho fiducia nell'amministratore delegato Sala, perché sono di quelli che pensano che sia una persona efficiente, e speriamo che riesca a colmare questo ritardo. Ce lo auguriamo tutti, perché sarebbe veramente, in un periodo in cui l'immagine dell'Italia è sotto i riflettori, immaginatevi cosa potrebbero scrivere i giornali tedeschi se, lo dico come battuta chiaramente, se si dovesse bloccare l'Expo. Cerchiamo di evitare qualunque figuraccia, ma è forse il caso di ricordarle Christine Lagarde, che ha detto ci sono meno di 3 mesi per salvare l'euro, e lo dice il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Mario Monti, che dice dal Consiglio Europeo mi aspetto il prossimo 27 giugno decisioni operative sulla crescita. Le decisioni che abbiamo assunto dimostrano che l'Unione Europea ha la capacità di compiere scelte importanti all'altezza delle attese delle nostre opinioni pubbliche prima ancora che dei mercati. Continuiamo e continueremo a lavorare per garantire la stabilità finanziaria della zona euro con tutti gli strumenti a disposizione. E mi attendo nei prossimi giorni che la discussione sulle modalità per rilanciare la crescita in Europa si sviluppi e si approfondisca in vista di decisioni operative in occasione del prossimo Consiglio europeo. Ma non ha parlato solo di Europa, come abbiamo già ricordato nella prima ora del programma il Presidente del Consiglio Mario Monti, molto seccato, anche di questo abbiamo già accennato nella prima ora del programma, per le dichiarazioni del Ministro austriaco Vetter, che aveva detto in sostanza l'Italia dovrà ricevere gli aiuti, bisognerà dare gli aiuti anche all'Italia oltre che alla Spagna. Sentiamo Monti su questo. Come considero del tutto inappropriato che il ministro o ministra delle finanze di uno Stato membro dell'Unione Europea commenti in questo modo la situazione di un altro Stato membro, mi astengo dal commentare a mia volta le dichiarazioni del suddetto ministro. Molto seccato Monti, e poco dopo è arrivata anche la precisazione del cancelliere austriaco Werner Faymann, che ha messo in guardia dal parlare male della situazione economica in Italia. Non siamo nella situazione in cui il giorno dopo gli aiuti per la Spagna, ha detto Faymann, l'Italia si troverà costretta a bussare alla stessa porta, quindi ha gettato acqua sul fuoco. Ma sempre in mattinata il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera se l'è presa sia con l'Austria ma anche e soprattutto con l'Unione Europea. Ha detto fa indignare il comportamento dell'Unione Europea. L'Europa oggettivamente ha dimostrato di non sapere prendersi in mano e ha reagito sempre aspettando l'ultimo momento prima del dramma. Poi è successo perché siamo riusciti ad arrivare a delle regole comuni del fiscal compact, la BCE è intervenuta in maniera saggia e coraggiosa quando si stava per saltare in aria. Adesso l'altro giorno si è intervenuti sulla crisi delle banche spagnole, però tutto questo non è sufficiente. Insieme siamo la forza economica e sociale più importante del mondo. Separati uno a uno effettivamente possiamo andare in crisi. Sono convinto che l'Europa poi di nuovo prima di disintegrarsi farà quello che serve, però noi dobbiamo pretendere di più. Nel frattempo è tornata a parlare anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha detto sarebbe fatale interrompere il percorso di risanamento, non si può rispondere alla crisi con il semplice indebitamento. Ci saranno condizioni per il prestito spagnolo che riguardano il sistema bancario nazionale, ma sono diverse sicuramente dalle condizioni poste per il salvataggio delle finanze pubbliche di un paese intero. E poi dobbiamo essere pronti a cedere competenze nazionali, cioè sovranità, se vogliamo un controllo europeo del sistema bancario. E di questo ha parlato questa mattina anche il Sole 24 Ore, con un titolo che già è diventato un titolo culto sia anche sui siti tedeschi ma anche sui social network italiani. Schnell, Frau Merkel, fai in fretta, muoviti, fai presto signora Merkel, un titolo a tutta pagina a 9 colonne con la foto a metà di Angela Merkel e il pezzo, diciamo così, o commento in questo caso che reggeva il titolo era dello stesso direttore Roberto Napoletano, nostro ospite. Buonasera direttore innanzitutto. Buonasera a tutti. Abbiamo appena sentito Roberto che cosa ha detto Angela Merkel, anche le tensioni con l'Austria, ma insomma tu leggo solo un passaggio iniziale nel tuo pezzo, dopo aver ricordato la grande lezione di Helmut Schmidt, uno dei padri dell'Europa, che dice attenzione, la grande Germania sta perdendo il senso della storia, del suo riscatto europeo e della solidarietà con i partner. Tu aggiungi, signora Merkel così non può andare avanti, non farà molta strada se continuerà ad essere indifferente alla rabbia dei greci, distante dall'orgoglio ferito degli spagnoli, dalle paure italiane e dalle angosce francesi. Che il tempo delle parole è finito. Che cosa deve fare in primo luogo la Germania e quindi portandosi dietro il resto d'Europa? Tu individui tre punti. Ma il primo punto è una garanzia unica per i depositi bancari a livello europeo. Questo è un punto su cui si sollevano questioni anche morali che non hanno che hanno anche un fondamento, non sono del tutto infondate, però bisogna aver presente che continuando così paga anche chi ha avuto comportamenti molto molto corretti, quindi c'è una moralità anche in questa scelta. Il secondo punto, bisogna rafforzare il fondo salva stati che deve poter intervenire direttamente a sostegno degli istituti di credito. E poi c'è questa grande questione che è quella di mettere insieme i debiti pubblici, è una questione molto importante, non vuol dire che chi ha più debito deve pagare come chi ha meno debito, questo è sbagliato, però non è meno giusto che chi ha commesso degli errori in passato e sta tentando di riparare continui a pagare un prezzo che non merita, perché è lasciato solo esposto agli attacchi della speculazione. La Germania dice che deve cambiare la Costituzione. Ciascun paese, se crede nell'Europa, può cambiare la Costituzione. La dichiarazione di oggi della Merkel, quando dice delle sovranità nazionali, indica che se non altro si sta discutendo di questo tema. Io ho detto con chiarezza, si tratta di scambiare sovranità nazionale con sovranità europea. E questo riguarda l'Italia, ma riguarda anche la Germania e riguarda anche la Francia. Cosa significa scambiare sovranità? Significa credere davvero nell'Europa politica e dotare l'Europa di una nuova, vera carta costituzionale. A quel punto le cose saranno chiare. Qui nessuno chiede sconti, però deve essere chiara una cosa, che l'intervento a favore delle banche spagnole non è un intervento tedesco, è un intervento europeo. Con i soldi anche sono nostri. I cittadini europei ad aver pagato quell'intervento e sono i cittadini italiani in parte rilevante ad avere contribuito ad assolvere questo nuovo obbligo, e non può essere che noi paghiamo e il risultato è che lo spread con sale alle stelle e che torniamo al 6% di rendimenti sui titoli a 10 anni. Non può essere questo. D'altro canto la morale è molto semplice. Prima è toccata la Grecia, poi è toccata l'Irlanda, poi è toccata il Portogallo, ora è toccato alla Spagna, tocchiamo ferro per l'Italia. Non si può proseguire così. Bisogna che l'Europa, che presa nel suo insieme è un'area forte, economicamente forte, con un debito ridotto, un debito pubblico pari a circa il 90% del suo prodotto interno lordo, quindi molto meno il debito pubblico americano, certo. Se reagisce nel suo insieme, dà un messaggio chiaro e forte ai mercati. L'Europa esiste, l'euro non è attaccabile. Questo serve oggi. Ecco perché abbiamo detto, l'abbiamo detto in tedesco alla signora Merkel, devi fare presto. E fare presto era il titolo famoso, l'invito al governo a suo tempo a muoversi, e ora l'abbiamo tradotto anche in tedesco, perché il tema si è spostato chiaramente da quello che possono fare i singoli paesi. Noi i compiti ci siamo messi a farli, con difficoltà nell'ultimo periodo, ma ci siamo messi a farli, a quello che può fare l'Europa. E una domanda nel finale però, direttore, perché noi da mesi che battiamo su questo tasto, alcuni ascoltatori non condividono, dicono che diamo troppe responsabilità alla Germania, ma tant'è. Tu che idea ti sei fatto del perché la Germania, nel caso specifico Angela Merkel, ha così difficoltà a capire che se poi va a fondo l'area euro, il 60% dell'export tedesco, un po' di meno adesso, ma insomma, va in Europa, e quindi si bloccherebbe anche la Germania, che tra l'altro è esposta comunque come sistema bancario nei confronti degli altri paesi dell'area euro, cioè ha degli asset importanti. Perché non scatta un meccanismo di sopravvivenza anche per la Germania stessa? L'idea che mi sono fatto io è che purtroppo i giudizi non possono prescindere dalle persone. Quindi, come si dice di una persona che ha carisma o non ha carisma, c'è ciò che distingue un leader politico da un altro, ciò che fa di un leader politico uno statista, è la consapevolezza piena della propria storia, il rispetto della propria storia, e questo purtroppo nel caso della Merkel non c'è stato, come non c'è stato per questo lungo direttorio Merkel-Sarkozy dell'Europa, e ovviamente si traduce in un piccolo calcolo elettorale, secondo me sbagliato, cioè che continuando così lei può vincere le elezioni. Non è vero. Io credo, abbiamo citato Smith, potremmo citare Kohl, potremmo citare i tanti padri fondatori che noi abbiamo coinvolto dal 5 giugno in questi stati, in questo manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Approfitto per dire che domani avremo un numero monografico del Sole 24 Ore, una parte speciale dedicata a salvare l'euro e anche a consigliare ai nostri lettori come mettere al riparo i propri risparmi in un momento di difficoltà così rilevante. Qual è il messaggio? Il messaggio è un messaggio purtroppo politico, e il messaggio è quello che la Germania deve riuscire a recuperare le sue radici, deve riuscire a avere una visione di lungo termine, e non è escluso che ciò avvenga. Cioè il fatto che all'interno della Germania sia un dibattito molto forte e che la stessa Merkel non è più, come dire, un muro impenetrabile. La dichiarazione che tu hai citato, scambio di sovranità nazionale con sovranità europea, è un segnale che può e deve essere colto anche dagli altri. Allora, grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Domani è appunto un numero monografico sul Sole, proprio sui temi dell'Europa e le sfide che ci attengono. I 3 mesi, oggi Christine Lagarde è numero uno del Fondo Monetario Internazionale, dopo quanto detto da George Soros 2 settimane fa a Trento, ha detto anche lei, l'euro ha 3 mesi di vita per salvarsi. Grazie direttore del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi saremo qui anche domani dalle 17 in poi, e anche fra 3 mesi, a vedere se veramente l'euro ha solo questo come limite di vita. 27 giugno, data cruciale, Consiglio Europeo. Nel frattempo un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.